Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Alessandro Milan è una gloria radiofonica. E senza benzina o gasolina, soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Un referendum come quello che si è celebrato ieri diventa ed è diventato solo l'ennesimo terreno di scontro tra bande del Partito Democratico. E quando i cittadini lo hanno capito, quando hanno visto che lì dentro non si stava più discutendo di trivelle, li hanno snobbati. Ti sei fatto il palazzo sul Giambo. E Matteo Renzi deve accettare l'idea che in questo paese non basta che lui prenda una decisione perché tutti attorno a lui gli battano le mani. Da stasera deve imparare ad ascoltare gli italiani. Se Renzi oggi ride, ride bene che ride ultimo. Spendi, spendi, spendi, spendi, spendi, spendi, spendi, spendi, spendi, spendi. Voci del dopo referendum, dove, come succede in politica, tutti hanno vinto, nessuno ha perso. Funziona così in Italia, si sa. Sul cofano all'autosalone. E ti dice: prendimi, ma spiaccio libidinoso, coglione. Ed eccoci allora! Sono le 6:31 minuti, cari ascoltatori, questo è 24 mattino, ci siamo anche oggi, abbiamo alzato la serranda, la Claire, la chiamano a Milano, la Claire, la saracinesca. Ci siamo e voi al 349-238-6666, eccolo qua, vi dicono tutti ha vinto chi è andato a votare, quindi io non sono andato a votare, ho perso, è da due giorni che devo rispondere agli insulti della gente. Ah, non sei andato a votare, adesso beccati il petrolio in mare a Genova, ma cosa significa? Cioè, come se uno è per il nucleare e vuol dire che tifa Chernobyl. Chernobyl, Chernobyl, ma siete cretini, cioè cosa significa? Uno è magari per il nucleare e spera che non succeda niente. Uno è per l'estrazione del petrolio, non sto parlando di me, in generale uno è per l'estrazione del petrolio e spera che venga fatto con tutti i sacri crismi, come viene fatto in Norvegia, paese dove estraggono tantissimo gas, tantissimo petrolio, ma si spera viene fatto tutto abbastanza bene, poi gli incidenti possono capitare. Ah, vabbè, vabbè. Saluto Marco da Monteveglio in provincia di Bologna, saluto Marco dalla Val Brembana in discesa verso il lavoro, in discesa perché andrà a lavorare giù in pianura dalla Val Brembana. Saluto un po' tutti, insomma, buongiorno da Maddaloni, Maddaloni, saluto il Meratese, e va bene, da Marco, sulla A11, dov'è la 11, Marco? Adesso io non sono, la 11, qual è? Peter Bescapè, qual è la 11? Ma guarda che cercano sul computer, cercano su Google, non so, secondo me sta tutto Vladimir Luxuria che saluto. Vladimir, buongiorno! Ma buongiorno! Come stai? Tutto bene? Grazie. Dov'è la 11? La 11? La A11, che autostrada è? La Firenze Mare, ma allora ecco, tu, ma non frequento. Tu porca miseria, ragazzi, dove ti giri c'è Firenze. Ma porca miseria. Siamo assediati. Eccola qua, Vladimir Luxuria. Vladimir è una persona molto sensibile, ha un sentire, come dire, delicato. È la tua sigla, si sa. Un vero guerriero della libertà e della democrazia nel suo paese. È perfetta come sigla, È perfetta. So, parlava di Putin, ma insomma è la sigla perfetta per la nostra Vladimir Luxuria. Insieme a Vladimir Luxuria ritorna con noi il grandissimo parlamentare con la lingua non biforcuta, Maurizio Bianconi. Buongiorno, e lo chiedeva a me, che lo dicevo subito, ma infatti. Se mi diceva, è l'autostrada del Cazzaro. Francamente è anche la mia, perché io perché vado in Versiglia, quindi è l'autostrada che unisce in mezzo ai ricconi, Firenze. In mezzo ai ricconi in Versiglia. Mica tutti sono ricchi in Versiglia, comunque beati ricchi, certo, viva la ricchezza, mica. Allora, siamo con Maurizio Bianconi e Vladimir Luxuria. Dobbiamo aprire il Parlamento, dai, che adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo. Eccolo qua, il ministro Boschi, che oggi ha parlato. Oggi parla al Corriere della Sera e incredibilmente dice in un'intervista di Maria Teresa Meli le cose che ci sono nei retroscena di Renzi. Insomma, effettivamente devo dire, devo seguire un po' Bianconi, perché se parla un po' e dice, sviluppa in concetti un po' più ampi nell'intervista quello che dice Renzi, insomma, cioè le regioni ora puliscano, abbiamo, insomma, il referendum voleva andarci la spallata, il ciaone era una battuta, vabbè, insomma, e poi soprattutto la cosa più importante, dice, il referendum di ottobre, se vince il no il governo non potrà fare finta di nulla, se invece vince il sì avanti fino al 2018. Sono le sciocchezze che riesce a mettere in fila la signorina. Eccolo lì, giudizio. Salutiamo il ministro Vladimir Luxuria. Vuoi salutare il ministro Boschi in maniera ufficiale dopo che Bianconi è così? Ma l'ha incrociato in Parlamento, Bianconi? Ma noi prima ci si parlava molto, perché siamo concittadini quasi. Lei è di la un paese che ha 10 chilometri da... Boschi. Ha tutto un elettorato suo, tutta roba di preti, tutta roba che io non frequento. Quindi... Di preti? Sì, e lei è cattolicissima. Sì. È fanfaniana, cattolicissima, anticomunista, di famiglia anticomunista. Il suo babbo è un membro della Coldiretti, nota associazione anticomunista. Ha fatto la campagna elettorale per Ventura, che è di sinistra, poi ha pensato bene di andare con Renzo. Francio Spagna, basta che si magna, e insomma è tutto... Quindi, ma comunque io ci parlavo, poi ci parlava. Siccome poi io non è che, siccome la conosco, non la devo criticare per quello che fa. No, ma poi, è chiaro. No, ma io intendevo se ci parlava. Lei se va male non saluta più. Ma no, ma io chiedevo se parlava con Vladimir Luxuria. Io volevo sapere, Vladimir, tu, il buon Bianconi, in Parlamento non vi siete incrociati? No, credo, lei ha credo di no. Cominciato. No. Sì, credo di no, perché... No, lei aveva... Sono entrato quando lei finiva. Ma buon per te, Vladimir. No, anzi, simpaticissima, intelligentissima. Mi sarebbe piaciuto conoscerla. Buon per te. Vabbè, insomma, vivete a Roma, fate un po'. Le strade del Signore sono infinite, figuratevi quelle di una signora, quindi sicuramente ci sarà modo di incontrare. Però, Vladimir, tu hai votato al referendum? Io ho votato e ho votato sì, e a differenza di quelli che quando perdono dicono comunque una vittoria, ammetto che è stata una sconfitta, quindi anche quelli che adesso vogliono fare il ricorso trovo che sia inopportuno, perché bisogna sempre rispettare comunque la volontà popolare. Quello che però, diciamo, mi dà molto fastidio sono state le dichiarazioni, a proposito della Boschi, sui costi del referendum. Mi dà molto fastidio, perché io ricordo che era stato chiesto di accorpare il referendum alle amministrative in un'unica giornata, che era l'election day, che avrebbe fatto risparmiare un sacco di soldi. Questa cosa non è stata voluta, non tanto per la questione di soldi, ma perché ovviamente se si accorpava alle amministrative sarebbe stato più facile raggiungere il quorum, e quindi che almeno adesso non si venga a criticare il costo del referendum. Ma questo è vero, non hai tirato fuori una cosa che effettivamente avevo rimosso, a parte che secondo me la critica alle spese del referendum è sbagliata in sé, perché se c'è il referendum la democrazia ha un costo e quindi è giusto. E poi totale che nella riforma costituzionale che loro propongono e sulla quale faranno un referendum, sì, dove inviteranno moltissimo ad andare a votare, certo, è previsto non solo non l'abolizione del referendum, ma addirittura l'abbassamento del quorum. Beh sì, con la riforma c'è. Poi quello sarà anche un referendum confermativo e quindi è una cosa ancora diversa, però effettivamente quella dei costi è giusta. Bianconi è andata a votare? Non lo so, Bianconi. Io sono andato a votare, ho votato sì, però non condivido né le grida di vittoria nei pianti di sconfitta, insomma, era questo, lo dico anche un pochino con dispiacere, perché constato veramente con dispiacere che c'è proprio un'immaturità complessiva nelle valutazioni politiche in Italia. Questo era un referendum misterioso, perché misterioso, il quesito nessuno ci aveva capito niente, che senza ci fosse stato il casino intorno sarebbe andato a votare il 3% delle persone, infatti non toccava niente nessuno. A un certo momento si è sollevato intorno a questo referendum una questione politica. Infatti, è l'unica cosa che porta un po' di gente ancora a votare. È l'unica cosa. Pretendere che dalla questione politica così sollevata agli ultimi 5 minuti su un provvedimento che a nessuno importava molto e che falsava petrolio sì, petrolio no, in realtà era un quesito quando tecnico. È finito un giacimento, si smonta e si va a capo, appunto, non è che si chiede. Questo era il quesito, quindi è per questo che ho votato sì, perché mi pareva giusto. Non per dare una spallatina a Renzi, no, dai, no, poi, un po' anche come napolitano, e Renzi hanno detto che non andava a votare, io ci sono andata tu. Non è che secondo me tra l'altro è più napolitano che l'ha fatta arrabbiare. Napolitano è il genio del male, Renzi è il clown del male, sono tutte e due appartengono tutte e due alla stessa categoria. Eccola là. Abbiamo sistemato anche Napolitano. Napolitano io l'ho definito in un'intervista l'altro giorno il becchino della democrazia italiana, forse gli ho fatto un complimento, perché Becchino la sotterra per conto terzi, lui ha fatto anche la buca. Ecco, Vladimir, vuoi dire tu qualcosa per salvare la situazione? No, fai parte di qualcosa prima che mi accusino di vilipendio alle istituzioni. Devo dire che non è mai bello invitare a non andare a votare, ad astenersi. Perché dato che siamo in un'Italia dove forse il partito vero di maggioranza è quello dell'astensione, credo che alimentare questo partito sia fare un favore all'antipolitica, perché poi dopo ci saranno le amministrative, poi ci saranno le politiche, poi ci sarà il referendum costituzionale, lì non ci vorrà il quorum, quello confermativo. Però poi dopo uno non si può lamentare se la gente si disaffeziona, se poi tu sei il primo che soffia sul vento dell'astensionismo. Eccolo là. E allora, però Renzi ha trovato anche un altro nemico, e questa volta Mentana gliela cantate di brutto. Renzi ce l'ha con i talk show. Senti qua, beh, io i talk show non li guardo, ma perché non li faccio fisicamente a reggere e li trovo abbastanza noiosi. Ma come al solito, se uno si occupa 12 ore al giorno di questa roba qui, non è che poi alla sera vuole pure. Però Renzi. Per settimane autorevoli ospiti si sono chiusi nei talk show. Hanno preso in ostaggio i social network. Una parte della classe dirigente di questo paese si dimostra una volta di più totalmente autoreferenziale. Vivono su Twitter o su Facebook, ma l'Italia è molto più grande. Gli altri vivono su Twitter e su Facebook. Lui mai su Twitter. Ma lo incrociate mai su Twitter o su Facebook? Mai. Scusi Milan, questi hanno la faccia che se gli si tira 100 lire, rimbalzano. Quella che dice che costa il referendum e c'era l'accorpamento che non hanno voluto fare. Questo che dice che vivono in Twitter e social network, voleva fare la riforma col Twitter. Voglio dire, siamo di fronte alla mistificazione permanente della realtà. Ma senti, qua Mentana sono... gliela cantate, com'è la faccia di gomma, rimbalza perché è di gomma. Se la deve smettere di dare la colpa alla televisione e ai talk show. Se non ci fosse la televisione a spiegare le ragioni dell'uno, le ragioni dell'altro e anche le sue ragioni, noi non sapremmo e non potremmo come cittadini decidere cosa fare. Capito Vladimir, gliel'ha cantato. No, vabbè, ma io mi offendo perché essendo due persone, sia io sia te che lavoriamo in radio, ma non dare neanche una colpa alla radio, davvero, vuol dire che non contiamo nulla. Date la colpa almeno a Vladimir Luxuria che ogni giorno su Radio Capital, lo ricordo, alle 9, col geco e la farfalla, fa disinformazione. Ma tanto non contiamo niente. Mamma mia, infatti, una roba incredibile. Anche Livio Fanzaga, ti faccio sentire la mitica di Livio Fanzaga, che dà del diavolo a tutti quelli che parlano, quali sono quelli del diavolo lì? Senti bene Vladimir, senti se cita anche la radio. Ce la facciamo? C'è? Eccola. Tanti sofismi con i quali si cerca a tutti i costi di giustificare questo disegno di legge. Tutta la gente lì della lingua biforcuta che fa le trasmissioni televisive, fa i dibattiti, scrive sui giornali. Lingue biforcute. Eccolo qui, vedi? Dibattiti, giornali, trasmissioni televisive. La radio niente. Comunque se vado a finire all'inferno, almeno lì troverò qualcuno che conosco. Tra l'altro lingua biforcuta, Bianconi, adesso l'ho trovata da Livio Fanzaga, vede tutti con la lingua biforcuta. È la lingua menzognera, la lingua biforcuta. Vede, volevo finire il concetto di sì. 5 minuti fa. Sì. Quando c'è tutte queste condizioni, il 51% è impossibile da raggiungere. In un paese dove per le politiche vanno, o le amministrative vanno a votare il 50-55%. Sì, sì. Quindi chi si è illuso di 51, voglio dire, non ha una visione della realtà obiettiva. Sì. Come chi canta vittoria per aver, diciamo così, raggiunto... non aveva raggiunto il cuoro. Che poi mi faccia il preciso anche lei, che è il 50 più 1, non mi dica anche lei il 51, che poi ci danno 3 in matematica. È il 50 più 1, ha ragione lei. Però noi dobbiamo prendere atto che c'è una quindicina di milioni di italiani che sono andati a votare, secondo me il 90%, diciamo così, sotto il profilo della rivolta politica più che delle trivelle. Questo invece di far cantare vittoria a Renzi e di far piangere gli sconfitti, dovrebbe farlo un po' riflettere. Può preoccupare. Ma io ho lanciato un hashtag cretini ti nasce, punto interrogativo. Quando ho visto che Matteo Renzi era contento, non ho preso, cretini si nasce, gliel'ho mandato anche a lei. Lo ritwitto. Ma io dopo il traffico vi devo far sentire una cosa importante. Vladimir Luxuria, tu darai mai il 2 per 1000 a un partito? Tra poco sai che c'è la dichiarazione. Hai mai pensato di dare il 2 per 1000 a un partito? Sai? No. No. Penso, forse gli bastano i rimborsi, non lo so. Ma io ti farò sentire uno spot tra poco, dopo il traffico, che secondo me ti farà cambiare idea. Dopo questo spot tu darai il 2 per 1000 a quel partito, fidati, tra poco. Milan, o traffico, what cosa tentacolare. Il quorum, una cagata pazzesca! Milan, mettici un sorriso anche quando perde il tuo caro Milan. Ma il povero Cooper lo ha perso ancora. Ma povero. Non si può andare a votare a un referendum che è il tipico esempio di abdicazione della politica alle proprie responsabilità. Alino, forse dovrebbero fare come in Perù. Se non vai a votare, 30 euro di multa. Milan, ma a te è mai capitato di andare a fare un test sul quoziente intellettivo? Se ci stai prendendo in giro, va bene, è divertente tutto. Se lo dici veramente, io se fossi in te, un test lo farei. Anche se poi ci rimarrei molto male, naturalmente. Ma lo dici veramente cosa? Ragazzi, siccome Ecco, primo test intellettivo. Siccome mandiamo la segreteria il giorno dopo, dite che cosa, se dici che cosa, se lo dici veramente che cosa, io non lo so, però non ho fatto il test, questo, quindi forse non ci arrivo per questo, Vladimir. Non lo so, non ci arrivo per questo. Comunque, Bianconi, vabbè, è uno che ha fatto anche il tesoriere di un partito e quindi il 2 per 1000 lo dà il partito. Glielo do perché... perché lo do, ma insomma non serve a niente. Non serve a io niente. Sono per, io ricordo che sono uno dei pochi... per il finanziamento pubblico. Il finanziamento certo, pubblico certo. E il divieto assoluto del finanziamento privato. È vero, è vero. È per il finanziamento pubblico tutto tracciato e niente finanziamento privato. Neanche una lira, meno che il costo delle terre. Vabbè, però Vladimir Luxuria, sei pronta? Prontissima, ti faccio ascoltare questo spot. I protagonisti di questo spot sono uno, Matteo Salvini, e l'altro, l'altro, dai, te lo faccio sentire, senti. Ciao Ruspa, a chi doni l'8 per 1000? E il 5 per 1000? E il 2 per 1000? Ah, beccato, questo non costa nulla. Tu dici piuttosto che lasciarli all'erario. Per donare il 2 per 1000 alla Lega basta scrivere D13. La D Ruspa! Come donare. Pronto, Ruspa, dai, dimmi. D13. Dai, sì, vabbè. Sì, vabbè, adesso non facciamo lo spot alla Lega, vabbè. Il 2 per 1000. Senti. Eccolo qua, la Ruspa, cara Vladimir. Non la russa, la Ruspa. La, la Ruspa, la Ruspa. A chi dai il 5 per 1000? Vrum, vrum. Va, brava, brava, la Ruspa. Vabbè. Ci arriva a un certo punto della vita in cui si cominciano a perdere colpi e si comincia a parlare con gli oggetti. C'era Troisi in quel film che li voleva far muovere per forza, li guardava e perché gli si muovevano, non gli si muovevano mai. Mamma mia. Beh, però bella questa cosa della però Ruspa. Non mi hai convinto. Non ti ho convinto. No, non ti ho convinto. E vabbè, insomma, parla con la Ruspa. Salvini parla con la Ruspa. Vi rendete conto? È la Ruspa che dà il 2 per 1000, l'8 per 1000. Ma è giusto, guardi che non è così fuori. Lui immagina che i suoi elettori siano tutti incazzati come la Ruspa, cioè lui parla in realtà con i suoi elettori. Sì, sì, certo, certo. La famosa Ruspa che gliel'ha preparata, ha detto che o siamo trogloditi o non si vota Lega, gli ha fatto un danno di quelli incredibili. Perché se vuole i soldi dalle Ruspe vuol dire che vuole i soldi dalle teste di cazzo. Invece di volere dalle persone normali, insomma. No, Bianconi, no. Hanno pagato qualcuno per fargli questa bella invenzione controproducente. Ma perché è controproducente? Guarda è che... controproducente perché dà l'idea di una Lega, non di una Lega aggressiva, ma di una Lega che si rivolge a degli imbecilli che ragionano come quell'oggetto lì. Comunque come spot secondo me non è molto efficace, perché esatto. A sentirlo sembra quasi che lui parli con qualcuno e poi che ci sia una Ruspa che copre con rumore quello che risponde all'altro, capito? No, proprio detto? No, perché gli dice no, sentilo qua, Ruspa, a chi doni? Ruspa, la Ruspa è il tuo elettore, no? Il suo elettore o è Ruspa non è un campo, voglio dire, io non la potrei mai votare, che io non mi sento Ruspa, capito? Non si sente Ruspa, e invece insomma ha dato delle ruspe ai suoi elettori, non so. Secondo me sì. Leghisti. Mentre ha visto i preti come fanno, dona il tot per 1000 alla Chiesa Cattolica perché c'è Fiorino che ha fatto questo, c'è Suore Antonia, e dà l'immagine di quelli che fanno questo. Si sono scordati di Bertone che ci fa l'attico, ma fanno vedere la gente. Se lui fa vedere la Ruspa vuol dire che i suoi lettori sono tutti in quel modo. Sono tutti in quel modo, le Ruspa. Vabbè, una lettura sociologica, è una lettura, insomma, caro Vladimir, vabbè, non t'ho convinto. Mi sa di no. C'erano molti partiti che parlavano con gli operai, con i cantieri, ma con le Ruspe. Con le Ruspe, sinceramente, non si era mai sentito. Va bene, qui siamo quasi in conclusione. Che cosa vi dovete dire? Vladimir, ci vuoi lasciare con una considerazione? Di che parli tu al Geco la Farfalla? Di solito parli del più e del meno, si parla anche di politica. Di argomenti di attualità. Attualità. E poi si chiedono l'opinione anche alla gente, originale, no? Sì, certo. Vuoi dirci qualcosa che oggi sarà nel menù? No, Visto che mi dai la possibilità, oggi parleremo di questa dichiarazione che ha detto, che ha fatto il Papa sul fatto che non si può essere cristiani se si credono ai veggenti. È vero, guarda, ce l'ho qua, questo, l'anatema sui cartomanti, guarda, ce l'ho qua sul giorno, no? Il Papa e i fedeli sono ladri e contrabbandieri di verità. Tu sei mai stato da un cartomante, Vladimir? Io? No, sinceramente no. Non vado dai cartomanti. E Bianconi? Io proprio no, ma sai lì non è che cartomanti, maghi, miracoli, sono tutti una famiglia. Tutti una famiglia, ce ne sono anche in politica forse, maghi, cartomanti. No, certo, affabulatori. Affabulatori, paraculi. Paraculi, facce di bronzo. Facce di bronzo, di gomma. Che qualcuno diventa primo ministro, qualcuno ministro. Hai visto? magari, non voglio sapere nomi, per carità, Bianconi, fermiamoci qui. Vi ringrazio, dai, Vladimir Luxuria e Maurizio Bianconi, voglio ricordare i conservatori e riformisti. Grazie, alla prossima. Ciao Ruspa, a chi doni l'8 per 1000? E il 5 per 1000? E il 2 per 1000? OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta... 1, 2, 3. Adesso... Tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci qua, sono le 7:20 minuti, cari ascoltatori, siamo pronti a leggere i giornali. E parleremo poi di immigrazione, che è il titolo un po' di apertura di molti quotidiani. Quotidiani che andiamo a sfogliare, forza! È martedì 19 aprile, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alle banche, soprattutto alla Popolare di Vicenza, parte l'aumento, il Consiglio fissa il maxi sconto e la seduta nella notte per definire le condizioni dell'IPO. E l'accordo Atlante Unicredit invece per la garanzia, questa è l'apertura dunque Atlante e le banche italiane. Mentre la questione migranti è per il Corriere della Sera la notizia principale, centinaia di morti in mare. Per la Stampa invece duello tra Merkel e Renzi sui fondi europei per i migranti. Anche per il Messaggero, migranti scontro con la Merkel. Così il Secolo XIX, migranti lite Merkel-Renzi, e invece il Giorno, Merkel dice no, vedremo a che cosa, al piano italiano. Avvenire mette strage a mare, questo come titolo di prima pagina, su questa foto che è già diventata una foto emblematica, è un barcone con decine di persone che si aggrappano disperatamente quando vedono la marina. È la foto che è anche la foto di apertura dell'Unità, ultima fermata Mediterraneo, centinaia di migranti inghiottiti nella più grande tomba del mondo. Il Giornale mette invece una tassa per gli immigrati, è il diktat tedesco. La Germania, che boccia la proposta italiana degli eurobond, impone invece le accise extra sulla benzina. Questa in realtà non è confermato, ma è ciò che secondo il Giornale è il piano della Germania. Per Repubblica invece il referendum, la mappa del non voto. Libero, ecco la verità sulle pensioni. Questa è una rapida carrellata di alcuni dei titoli, ne vedremo altri se c'è tempo, però voglio tuffarmi subito nella lettura di alcuni articoli, a cominciare dall'anatema del Papa. Ne abbiamo parlato un po' in chiusura anche alle 6:45 al Parlamento. L'anatema del Papa nuovamente contro maghi, veggenti e cartomanti. A me viene da applaudire, da alzarmi ed applaudire, indipendentemente, non è questione di seguire o no il Papa, ma insomma, chi segue maghi, veggenti, cartomanti, ma io sarò durissimo su questa cosa, merita di essere spennato, intanto spennato vivo fino all'ultimo centesimo. Se è ovviamente raggirato, questa è una truffa, ma se si affida a maghi, veggenti, cartomanti, spennato fino all'ultimo cent, questo merita. E dopodiché, eccolo qui, il Papa ieri ha fatto l'ennesimo, non è la prima volta, ennesimo anatema contro veggenti cartomanti, di rivolgersi a veggenti cartomanti non è cristiano, dice il Papa. Vabbè, certamente lui ha un punto di vista di un certo tipo, io non ne faccio una questione religiosa. Di più, dice il Papa, i presunti profeti conducono a un cammino ingannevole, sono contrabbandieri di verità. Il Giorno, così come La Stampa, dedica una pagina a questa tematica e a questo anatema del Papa. A proposito di falso, a proposito di falsi, sapete quanto è certificato da un numero dell'OCSE il mercato del falso globale? Il falso, cioè false scarpe, false griffe, falsa elettronica, falsi orologi, falsi farmaci, falsi giocattoli, per carità, è una stima, ovviamente non è che c'è una cifra scientificamente provata, ma dalle scarpe agli orologi, il giro d'affari delle merci contraffatte, che è sempre più un giro d'affari digitale, è raddoppiato tra il 2008 e il 2013. E è un business mondiale da 461 miliardi l'anno, miliardi di dollari, 461 miliardi di dollari. La stima dell'OCSE, che calcola che i beni contraffatti o piratati abbiano generato nel 2013, questo è l'ultimo dato, scambi fino a 461 miliardi. Ne parla Repubblica a pagina 17. E sapete qual è il paese più colpito dalla pirateria? Gli Stati Uniti. Sapete qual è il secondo paese al mondo più colpito da questo giro? Avete indovinato, siamo noi. L'Italia, l'Italia nel bazar del falso globale, un business da 461 miliardi. Il paese più colpito dalla contraffazione negli Stati Uniti, oltre il 20% dei prodotti sequestrati riguarda marchi americani. L'Italia invece arriva al secondo posto con il 14,6% di marchi contraffatti. D'altronde siamo straordinari produttori di marchi originali e quindi veniamo copiati e veniamo gabbati, diciamo così. Oh, questa è una notizia che mi ha colpito, riguarda una sentenza per una diagnosi medica sbagliata, e lo racconta il Giornale così: ha il cancro ma non è vero, paziente risarcito per lo shock. È Enza Kusmai che racconta di questa storia a pagina 18, di una diagnosi sbagliata e di una sentenza civile in appello a Milano. La prima visita è quella a un paziente al quale viene diagnosticato un tumore al colon, poi però smentito da altri esami. Certo, un mese dopo, ma racconta il Giornale, quante ore di insonnia avete contato nel frattempo? Quanti rapporti umani avete spezzato? Si può quantificare tutto? Questa brutta esperienza si può tradurre in denaro? Ebbene sì. Anche questo genere di errore medico ha un prezzo e per i giudici di appello di Milano vale esattamente 6.100 euro, perché va risarcito così il turbamento dell'animo determinato dalla diagnosi errata. Il caso concreto è a Milano, a un paziente in cura al policlinico viene diagnosticato il tumore che colpisce il colon. Il paziente però vuole vederci chiaro, si precipita in un altro ospedale dove diagnostica una displasia e non un tumore. Una bella differenza che fa scattare nel paziente il desiderio di riscatto. Viene dunque rappresentato da un avvocato. In primo grado il Tribunale Civile respinge le richieste risarcitorie dell'uomo perché il medico si era difeso addebitando parzialmente l'inesattezza della diagnosi a un'errata trascrizione della segretaria. E dicendo, tra l'altro, i giudici che l'errore non era andato a ledere l'integrità fisica del paziente, ma in appello l'uomo non ci sta, ricorre, e in questo caso il giudice gli dà ragione perché è stata riconosciuta la colpa grave nella diagnosi errata, dunque la compromissione dell'equilibrio psichico della persona. Risultato 6.100 euro di risarcimento. A proposito di risarcimenti, state attenti. State attenti, cari amici. Ora, giustamente, per raccontare questa storia e questa notizia di cui parla Greta e di cui scrive Greta Sklaunic sul Corriere della Sera, pagina 23, uno mi ha scritto: ma scusate, ma se uno tradisce il coniuge, tradisce la persona, no, il coniuge proprio durante un matrimonio, e mette la foto dell'amante su Facebook, ma è pirla, cioè giusto per usare un eufemismo, per usare un eufemismo, eppure c'è chi lo fa. Attenzione allora, attenzione, gli avvocati divorzisti, detective su Facebook, vale come prova. Pagina 23 del Corriere della Sera. All'ex moglie aveva detto di non poter andare a prendere i figli al calcetto perché aveva una tibia rotta. Ma come fai a dire che hai una tibia rotta? Invece si fa postare su un panfilo a Monte Carlo e mette tutto su Facebook. E perché aveva... cosa aveva fatto? Aveva escluso la donna... La donna... Ma sentite qui, aveva escluso la coniuge dalle amicizie su Facebook... Ma la coniuge o l'ex coniuge, l'ex moglie, gli aveva chiesto un'amicizia con un profilo falso con una foto di una bellissima donna e lui subito clic, amicizia data, aveva dato l'amicizia alla moglie, scusate se rido, e niente, vabbè, è stato beccato così. Oppure c'è quello che sostiene di non avere i mezzi per pagare l'assegno di mantenimento e poi pubblica su Facebook le foto su uno yacht alle Maldive e il giudice può andare a capire, hai fatto le foto... e ti sei potuto permettere le vacanze alle Maldive, ma come? Oppure c'è quello che si geolocalizza sempre nello stesso posto ed è stato beccato ad avere una seconda casa in cui si rifugiava con l'amante. Attenzione, perché tutto ciò adesso potrà valere come prova. Lo scrive il Corriere: selfie, tradimenti, conti non pagati, la vita sui social diventa prova in tribunale. Attenti, attenti, ma eccoci qua, l'articolo che mi fa pensare della giornata, quello da mani sul volante se siete alla guida, è Ferruccio Sansa che racconta sul Fatto Quotidiano la storia di due politici regionali, consiglieri regionali sardi, politici in cella, uno per presunti appalti pilotati, un altro, e si tratta di Antonello Peru, un altro Giovanni Satta in galera per traffico di droga. Politici in cella, l'indennità arriva lo stesso, 6.600 euro al mese per stare in prigione. Sono due consiglieri sardi, per carità, sono innocenti fino a prova contraria, ma succede anche questo in Sardegna, dove la classe politica è decimata dalle inchieste, dovevano ritrovarsi all'aula del Consiglio regionale, invece condividono la cella, ma niente paura, l'indennità da 6.600 euro arriva puntuale alla fine del mese, comunque. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il ciaone al referendum dell'informazione. Vabbè. Allora, cari ascoltatori, cominciamo a parlare di immigrazione. C'è questa foto... questa foto impressionante che molti giornali mettono in prima pagina, davvero concentratevi su questa foto, un barcone semi affondato con a bordo una trentina di migranti assiepati. Evidentemente hanno appena visto la salvezza, nel senso una nave forse della Marina Militare da cui viene fatta la foto e insomma sono tutti protesi verso l'ultimo sforzo. E questa foto è un po' l'emblema di quelle foto invece che non vedremo mai, perché si parla di almeno 200 migranti morti nell'ennesimo naufragio, certo non confermato, Elena Tebano racconta sul Corriere della Sera, sono i superstiti che parlano, noi a picco nel buio, si teme la strage, sarebbero tra i 200-300 i profughi e i migranti, soprattutto somali, etiopi, sudanesi, egiziani, morti in un nuovo naufragio il 12 aprile, dunque una settimana fa. Cercavano di raggiungere l'Italia dopo essere partiti da Egitto e Libia. I testimoni dicono eravamo 500 sulla barca, 23 sono sopravvissuti, usando pezzi di legno presi dalla barca che si è capovolta per tenersi a galla prima di essere soccorsi. Parlano della partenza dall'Egitto. Ecco, al di là delle conferme o smentite, ci sono delle cose che fanno pensare, per esempio, la riapertura della rotta egiziana, per l'appunto. In Libia pare sia in questo momento un po' meno sicuro partire, ci sono più controlli ed ecco allora che ci si sposta un po' più a est, dall'Egitto, e pare che Alessandria sia la nuova rotta, il nuovo punto di partenza. È una nuova rotta egiziana. Voi capite che con l'Egitto, tra l'altro, non abbiamo grandi rapporti, vista anche la vicenda di Giulio Regeni ultimamente, e dunque il nuovo fronte egiziano rischia di essere un nuovo fronte molto caldo. Perché tutti i giornali oggi titolano che c'è una lite tra Renzi e la Merkel? Perché l'Italia ha fatto una proposta per affrontare la questione dei migranti. E cioè quella di finanziare l'emissione di Eurobond per finanziare in qualche modo la sicurezza degli stati da cui partono questi barconi. Il governo tedesco però è contrario, ed è contrario a finanziare con debito le spese per affrontare la crisi dei rifugiati, e per questo ieri la Merkel ha detto no, attraverso il suo portavoce, a uno dei pilastri della proposta italiana avanzata nel fine settimana per un patto europeo sull'immigrazione, quella che riguarda appunto l'emissione di Eurobond. Per la verità non è che la Germania è contro tutto il piano, ma è contro la parte economica della strategia proposta da Roma. Il resto è in via di valutazione, come racconta Danilo Taino a pagina 4 del Corriere della Sera. L'opposizione a caldo della Germania non è piaciuta ovviamente a Renzi, che dice: se la Merkel non è d'accordo, i tedeschi hanno soluzioni diverse, ce le dicano. E guardate, la soluzione diversa, secondo il giornale, proposta dalla Germania, è questa: una tassa europea sulla benzina. Per carità, qua in Italia se vogliono i tedeschi, noi ci abbiamo pensato varie volte, quando non sappiamo cosa fare mettiamo le accise sulla benzina. E quindi insomma arrivano questi geni a proporre una cosa che in Italia si fa da anni. Solo che secondo Gian Michalessin sul giornale a pagina 10, la Germania, che boccia il piano Renzi di suddividere le spese tra i paesi membri, vuole finanziare tutto l'emergenza con una tassa europea sulla benzina. Questa sarebbe la proposta del ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Il piano per finanziare la lotta all'immigrazione. Staremo a vedere. Anche il giornale correda questo articolo con la foto che vi descrivevo prima, che trovate ovunque sui giornali. L'ho messa anche sul mio profilo Twitter, Alino Milan, la foto appunto di questo barcone in grave difficoltà. Ne parleremo più avanti di immigrazione. Se volete parliamo anche di referendum, perché c'è ancora il dopo referendum, le polemiche, Renzi che dice gli italiani si sono espressi e hanno vinto, abbiamo vinto, insomma ha vinto, si sono espressi in maniera chiara 70-30, 30 hanno votato no, 70 o non hanno votato, o hanno votato sì, la maggior parte non ha votato per la verità. E, anzi 70 proprio non sono andati a votare. E, però che succede? Che c'è un ricorso presentato sulle trivelle. Archiviato il referendum, leggo da Dino Martirano sul Corriere della Sera pagina 6, con una coda di veleni, coda di ricorsi, eccolo qua, il comitato no trivelle non si dà per sconfitto e con un colpo di coda annuncia ricorso al Ministero dello Sviluppo Economico per chiedere il blocco di 5 concessioni estrattive entro le 12 miglia. Renzi dice: io non ho perso. Nel classico retroscena firma Goffredo De Marchis a pagina 5 di Repubblica, Renzi, leggendo i dati del referendum, dice: la spallata è fallita. Non minimizzo certo i 13 milioni di sì, ma considero il 30% di votanti e il 70% di astenuti un dato naturale, non un segnale a me. Quindi le strumentalizzazioni dei Salvini e dei Brunetta sono andate a farsi benedire. Così Renzi. E parla anche il ministro Boschi. Il ministro Boschi, intervistata da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, fa una pagina di intervista, pagina 7, dice: dal referendum costi per tutti, le regioni ora pensino alla sanità. Il referendum non ha raggiunto il quorum nemmeno in Puglia, fossi in Emiliano mi preoccuperei per lui, dice il ministro Boschi, dunque ricalcando quello che ha già detto Renzi. Comunque questo non era un referendum sul governo, l'abbiamo detto all'inizio. Ora le regioni promotrici si occupassero di sistemare i depuratori, e questo anche lo ha detto già anche Renzi e viene ribadito dal ministro Boschi. E poi parla dei costi, i costi del referendum, costi per tutti noi, anche se qui bisognerebbe dire che era stato chiesto di accorparli alle amministrative e quindi i costi sarebbero stati certamente minori, ma in quel caso chiaramente si sarebbe perso dal punto di vista del governo, molto probabilmente. Comunque, parla poi del referendum a ottobre, il ministro Boschi dice sarà bello vedere insieme Salvini e Vendola, Grillo e Brunetta e anche Berlusconi. Noi siamo convinti che gli italiani sapranno benissimo da che parte stare. Questo è ciò che dice Maria Elena Boschi, intervistata da Maria Teresa Meli, trovate l'intervista a pagina 7 del Corriere della Sera. Ah, c'è anche il ciaone, vabbè. Fabrizio Roncone va a sentire Ernesto Carbone, colui che ha detto il ciaone, dice non mi scuso per quel ciaone su Twitter serve sintesi, 160 caratteri, 140 per la verità onorevole, ecco appunto ancora di meno, 140, e comunque il ciaone l'ho usato perché me l'ha insegnato mia figlia, da qualche settimana ci salutiamo così, ciaone. Vabbè, archiviata questa polemica. Tra l'altro di dopo referendum parla anche nell'articolo secondo me più interessante della giornata Jacopo Giliberto, racconta cosa è l'impatto economico, cosa significa lo smantellamento degli impianti più vecchi, lo fa anche sul caso Ravenna, per esempio il caso di Angela Angelina, che è non è un nome e un nomignolo, ma è appunto uno di questi impianti, vero Mauro Meazza? Buongiorno. Buongiorno, temevo mi dicessi ciaone. Ciaone. Te lo dirò alla fine forse. Infatti ti volevo proprio consigliare, tra le cose che oggi trovi sul Sole 24 Ore, questo lavoro di Jacopo Giliberto sul post voto del referendum. E cos'è Angela Angelina? Guarda, lo stavo leggendo insieme a te, anche perché mi sono fermato qualche pagina prima dove parliamo di petrolio, sì, a livello mondiale. Sai che ieri è andato fallito questo vertice per controllare insomma in qualche modo la produzione di petrolio, quindi c'è stato un primo crollo dei valori, però in realtà poi la quotazione si è ripresa. Ma ti spiega tutto Sisti Bellomo nella pagina 5. Ti segnalo appunto, torno a segnalarti il lavoro sullo smantellamento degli impianti, che non è una procedura affatto semplice, perché ci vogliono diversi anni per smantellare. E poi, oltre a quello che trovi sul Sole 24 Ore, c'è quello che oggi trovi con il Sole 24 Ore. Mm-hmm. E cioè, essendo martedì, dai che lo sai... La guida. Il corso di educazione finanziaria, i tuoi soldi. Guarda che lo trovi solo in edicola, non venire a chiedermelo al bar. Come ecco, sempre. Come ogni martedì mi fai l'agguato al bar per chiedermi la copia. No, c'è in edicola con il Sole 24 Ore i tuoi soldi. Oggi tra l'altro si parla di obbligazioni e la cosa mi dà il destro per ricordarti, per segnalarti una notizia che trovi nelle pagine di Finanza che tu sempre avidamente devi leggere, ricordati. Cioè sta tornando sul mercato dei bond l'Argentina, che sta apprezzando i bond. Certo, non hanno un merito, un rating particolarmente... così rassicurante, però c'è stata una richiesta molto forte, il prezzo dovrebbe essere fissato oggi. Ti spieghiamo tutto nelle pagine di Finanza che tu leggerai, ricorda avidamente. Bene, avidamente, molto bene. Poi, essendo martedì, c'è il coronavirus anche. Bravissimo, chiaro. E parliamo, tra le altre cose, parliamo anche di deleghe. La questione dei bond argentini però si collega a una notizia che già segnalavi prima. Beda Romano ti spiega questa posizione sugli eurobond per i migranti, perché la Commissione europea in realtà sarebbe abbastanza favorevole e quindi c'è proprio una opposizione tedesca, ma ti spiega bene tutto Beda Romano nelle pagine di oggi. E infine, ma ultimo ma non per questo meno importante, come si dice, ti voglio segnalare che stiamo aspettando forse già oggi il codice appalti. Ah, Che sai che avevamo questo termine del 18 aprile, vabbè, oggi sarebbe il 19, però sta a guardare il capello. Dovrebbe andare in gazzetta già oggi. Trovi tutti i particolari nelle pagine che tu leggerai religiosamente, e cioè quali? Norme e tributi. Bravissimo, traffico! Milan, Alessandro, Meazza, Mauro, Pesca, Peter, i furbetti del quartierino dell'informazione. E c'è anche Lorenzo Nespoli che si è salvato questa volta. Comunque, legato dal punto di vista della successione della cronaca, ma non c'entra niente con il referendum, le estrazioni, non c'entra niente, anche lo dico due volte con questo tono, anche perché ieri mi hanno detto ecco vedi non sei andata a votare, guarda cosa è successo a Genova nella Valpolcevera, non c'entra nulla. E poi come se uno fosse favorevole agli incidenti quando accadono, vabbè, l'ignoranza è sempre una brutta cosa, ma comunque legato a questa storia del referendum come successione di cronaca, certo fa specie vedere l'incidente in Valpolcevera. Appunto, siamo in Liguria, dove domenica c'è stato uno sversamento nel torrente Polcevera di 600 metri cubi di petrolio. Ancora una volta, scrive il Secolo XIX a pagina 2, Genova si ritrova a temere le piogge. Il pericolo non è quello di un'alluvione, ma di un disastro ambientale, perché se il torrente Polcevera dovesse gonfiarsi, aumentare di portata, le dighe e i terrapieni in cui sono stati confinati 600 metri cubi di petrolio sversati nella notte di sabato non riusciranno a evitare che il greggio arrivi in mare. Ci sono ovviamente al lavoro ininterrottamente vigili del fuoco, tecnici, capitaneria di porto, hanno impedito per ora che tutto questo succedesse con panne assorbenti e terrapieni, ma l'equilibrio è chiaramente precario. Il Secolo XIX racconta in due pagine, pagina 2-3, questo incidente nella raffineria e insomma i tentativi per cercare di salvare il mare e per cercare di salvare la situazione e bonificare. Tra l'altro, a proposito, legato al referendum, questo sì, sapete che Renzi si è lamentato della TV e anche dei talk show. E beh, oggi, giusto per calcolare due numeri, La Stampa con Paolo Festuccia mette a pagina 6 un articolo che suona così: ogni giorno parlano in TV di Renzi per 84 minuti. Più di lui è sullo schermo solo Barbara D'Urso. Per carità, poi il confronto non si può fare così, nel senso che, per esempio, in questa statistica, ecco il tempo di notizia. Paolo Festuccia, La Stampa, Renzi. Di Renzi parlano 84 minuti, cioè un'ora e 24 minuti al giorno, spalmati però tra le edizioni di vari telegiornali, mentre, che ne so, Antonella Clerice in video 74 minuti al giorno, però ha una trasmissione concentrata da un orario. Non è che è un paragone un po' improprio, però insomma non è che Renzi si possa lamentare di quanto la TV si occupi di lui e quanto spazio gli dia. 84 minuti. 84 minuti al giorno, mica male. Va bene. Dovremmo occuparci anche di cose estere interessanti, per esempio in Brasile. In Brasile c'è stato l'impeachment a Dilma Rousseff, presidente, accusata di aver manipolato il bilancio pubblico. E la Camera ha votato l'impeachment, vi segnalo sul Corriere della Sera, Rocco Cotroneo fa un bel ritratto di chi? Del vicepresidente brasiliano Michel Temer, 75 anni, e della sua compagna Marcela, 32 anni, ex Miss brasiliana. Perché? Perché il vicepresidente, accusato di tradimento dalla presidente Dilma Rousseff, sarà colui che dovrà in qualche modo, in caso si porterà a compimento l'impeachment, prendere il potere per qualche mese. Mentre mi ha colpito molto questa cosa della Francia, hai capito, la Francia riceve Al-Sisi, Hollande, dice, fa un timido accenno ai diritti civili, che Al-Sisi risponde che i diritti civili in un paese come l'Egitto, molto a rischio, non possono essere applicati con lo stesso metro con cui vengono applicati in Francia. bella spiegazione, insomma, dal presidente egiziano. Poi cosa succede? Poi si firmano i contratti. Repubblica, Francia, armi al Cairo per 1,5 miliardi. Eccolo qua. E i diritti umani improvvisamente vanno a farsi fottere o a fare un giro in soffitta. Così. C'è da firmare il contratto. Va bene, va bene. Ci sono altri articoli da leggere? Sì, questo mi ha colpito. Siamo anche in diretta su Facebook in questo momento, sul mio profilo pubblico. La regina della casa in Italia è sempre la donna. Una pagina di analisi seria con tanto di statistiche. Roselina Salemi, pagina 28 della Stampa. Nelle pulizie di casa trionfa sempre la donna in Italia. La collaborazione uomo-donna è scarsa rispetto alla media dell'Unione Europea. Siamo proprio a terra. Lui certo cucina. Magari anche un provetto chef o pensa di essere tale. Lui certo carica la lavastoviglie. Lui certo magari lava i piatti, ma non stira, non spolvera, non pulisce mai. È sempre la donna la regina della casa. Ma chi se ne frega?